Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Buon weekend, una buona giornata, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Questo è il meglio di Nessun Luogo Lontano, l'appuntamento del weekend in cui andiamo a recuperare i fatti salienti della grande attualità internazionale e i temi di cui ci siamo occupati. Partiamo dagli Stati Uniti, partiamo da Charlottesville, in una puntata in cui vi abbiamo raccontato di quel corteo dei suprematisti bianchi, di quella contromanifestazione e anche di quel tragico incidente. Serena Danna, giornalista, La Lettura, Il Corriere della Sera. Serena, buongiorno, benvenuta a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno. Serena, tu segui ormai da tempo le vicende statunitensi. Quello che è accaduto è che una galassia molto composita di gruppi di estrema destra da alcuni mesi hanno, come dire, sollevato la testa, si sono fatti molto più visibili, anche molto più spregiudicati nelle loro manifestazioni. E però a Charlottesville si sono visti non solo cappucci bianchi e svastiche e iconografie naziste, si sono viste anche armi, no? C'erano delle milizie che giravano per strada, che poi si sono scontrati con la fazione avversa. Allora, continua ad esserci un grande punto interrogativo rispetto a questa, appunto, come l'hai definita bene tu, galassia delle nuove destre americane. L'idea della manifestazione era quella di portare identità diverse a lottare per una causa comune, che era, appunto, come hai detto, la rimozione di uno dei simboli primari, no? Dei bianchi suprematisti, o comunque di quelli che vivono ancora la ferita del sud strappato. La grande domanda adesso è capire se quello che è successo è stata la fine di un, diciamo che dopo quello che è successo non ci sarà più nessuna tragedia del genere, oppure sì, se invece al contrario è solo l'inizio di un tentativo di organizzazione di una galassia che finora è stata ancora molto diciamo non ha avuto ancora molti punti di contatto, se non in un universo molto particolare che è quello della rete. Sì, e adesso ci andiamo, perché ci sono, come dire, alcuni nomi che emergono dalla rete, anche alcuni siti che fungono in qualche modo da aggregatore per movimenti diversi. Fra l'altro c'è un gruppo di ricerche, il Southern Poverty Law Center, che ha pubblicato una ricerca, una mappatura proprio di tutti questi gruppi che, ripeto, vanno da propugnare la supremazia bianca, dichiaratamente neonazismo, eccetera, eccetera. Quindi anche con delle sfumature al loro interno. Però è vero che ci sono dei nomi che ultimamente, negli ultimi mesi, negli Stati Uniti hanno cercato di mettere insieme questi gruppi. L'altra domanda sarà anche quanto poi pesano dal punto di vista elettorale, perché questo poi è interessante. Molti commentatori, ma non solo commentatori, ma anche politici, sia democratici che repubblicani, hanno però puntato il dito contro Donald Trump. Questo ritardo da parte di Trump, Serena Danna, come può essere letto? Ma da un lato c'è chi dice che questa sia ormai la sua più evidente strategia politica, no? Delay, cioè prendere del tempo, aspettare, vedere che succede. Se poi, diciamo, non succede davvero nulla di gravissimo, allora si rientra da una porticina. Lui ha un atteggiamento sempre molto ambiguo, non c'è mai nulla. Ecco, quando gli fanno la domanda specifica nega, perché tutte le volte in cui ha dovuto in qualche modo dichiarare il suo appoggio a il KKK, sì, appunto il suo sostegno all'alt-right, lì ha sempre negato. Ma quando invece, diciamo, in generale l'ambiguità credo sia proprio il suo stile, no? Sì. C'è sempre un po' questo atteggiamento per cui faccio l'occhiolino a un certo tipo di elettorato, a un certo di idee, di personaggi, poi però me ne tiro indietro. Non è che questo flirt di Trump potrebbe rivelarsi un po' troppo pericoloso anche per la sua carriera politica? Ma questo lo vedremo, secondo me, presto per tirare bilanci da questo punto di vista. Io ho sentito dire tante volte in questi primi mesi di governo Trump che si andava verso un ridimensionamento, no? Quest'idea che Trump

Raffaele Mauriello, che è uno storico esperto di Islam sciita, insegna all'Università di Teheran Alameda Batai, e gli abbiamo chiesto appunto come va letta la dichiarazione di Rouhani. Sentite. Ma questa è un po' una risposta della nuova amministrazione, nel senso che l'amministrazione era già stata eletta 4 anni fa, Rouhani ha vinto di nuovo le elezioni. C'è un po' una discussione di natura politica fra gli Stati Uniti e l'Iran sul rispetto di quello che si chiama l'accordo nucleare, persiano conosciuto come Barjom. In realtà, da un punto di vista tecnico, entrambe le parti, sia gli Stati Uniti che l'Iran, stanno rispettando i patti. La discussione è su quello che viene definito dalla stampa l'anima dell'accordo, cioè il fatto che in realtà l'accordo in certo senso prevede anche degli elementi di natura politica, e su questo c'è differenza di opinione fra l'Iran e gli Stati Uniti, dove gli Stati Uniti stanno applicando delle sanzioni al programma missilistico dell'Iran, che non è incluso nell'accordo nucleare, e l'Iran ritiene che in realtà l'accordo nucleare andava un po' oltre, nel senso che era sul nucleare, ma era anche un po' un ritorno dell'Iran nella comunità internazionale. L'Iran sta tornando alla grande nella comunità internazionale, si vede la prima volta per esempio che un capo delle forze armate iraniano fa un viaggio all'estero, attualmente è stato in Turchia per gli accordi, soprattutto per quanto riguarda la Siria, la crisi in Siria e il futuro, forse quando ci sarà referendum nel Kurdistan iracheno, che preoccupa sia Baghdad, l'Iran e la Turchia. Diciamo, dal punto di vista della nuova presidenza, cioè del secondo governo Rouhani, il punto è anche di coprirsi le spalle rispetto ai conservatori che lo hanno sempre attaccato sul fatto che gli Stati Uniti stanno continuando ad imporre sanzioni, ma soprattutto, quello che è più importante, continuano a bloccare l'accesso finanziario delle banche iraniane al mercato internazionale. Questo è il grosso problema economico della presidenza Rouhani, il fatto di reinserire l'Iran appieno a livello finanziario e nella comunità internazionale. In teoria l'Iran lo potrebbe fare, però gli Stati Uniti minacciano proprio in questi termini molti paesi, tra cui l'Italia ed altri, indicando che non devono consentire alle banche iraniane di operare in Europa e in altri paesi. La Cina se ne frega altamente, però questo blocca molto, per esempio, i rapporti commerciali tra l'Iran e l'Unione Europea. La voce è quella di Raffaele Mauriello, docente all'Alameda Batai, università prestigiosa, università di Teheran, capitale appunto dell'Iran. Con la progressiva risoluzione, adesso vedremo quanto ci vorrà, insomma, del dossier ISIS o Stato Islamico, se preferite, l'amministrazione Trump ha ricominciato a lanciare strali sull'Iran. La sensazione è come se abbattuto un nemico si dovesse eleggerne un altro. Dal punto di vista dell'opinione pubblica iraniana, come viene percepita questa dinamica? Se viene percepita questo continuo braccio di ferro tra Washington e Teheran? Sentite ancora Raffaele Mauriello. Guarda, in un certo senso gli iraniani, anche adesso è un anno più o meno, non siamo ancora arrivati, insomma 6 mesi dall'amministrazione americana di Trump, gli iraniani stanno aspettando, insomma hanno un'esperienza di molti anni di inimicizia con gli Stati Uniti a questo punto, dal 1980 grosso modo, quindi stiamo parlando di quasi 40 anni. Trump è percepito come è percepito da molti altri paesi, cioè è quasi un'incognita, nel senso che sì, dice molte cose, però in realtà, per esempio, l'amministrazione nordamericana ha confermato che l'Iran sta rispettando i patti sul nucleare. Questo è molto importante perché sì, lancia strali, però concretamente continua a rispettare il patto, lo dicevo prima, no? C'è uno scontro politico perché il problema grosso è che l'accordo nucleare ha risolto in realtà in maniera anche efficace lo sviluppo di quella che era percepita come l'idea che l'Iran volesse procurarsi le armi nucleari, e sta funzionando molto bene. Il problema chiaramente è che le parti, soprattutto l'Iran, sperava in un accordo anche di natura politica, non formale ma comunque di fatto. Questo è avvenuto con l'amministrazione di Obama, che ha restituito molti soldi che erano stati bloccati agli iraniani nelle banche americane. Non sta succedendo con l'amministrazione Trump, che sì, continua a rispettare la parte americana, insomma, dell'accordo, ma appunto continua ad imporre sanzioni. In realtà io credo che Trump alla data non si è ancora fatto un'idea molto chiara di cosa fare con l'Iran. Non conosce, è un paese che non conosce ancora molto bene, e quindi continua a dire delle cose così in maniera generale, però a volte viene anche contraddetto dal suo ministro degli esteri, no? Quindi in realtà la cosa è complessa. Gli iraniani continuano ad aspettare di vedere cosa vuole fare effettivamente Trump. Certo, a questo punto, dopo 6 mesi, iniziano ad essere un po' stanchi in un certo senso, e quindi si vede anche l'amministrazione di Rouhani, che all'inizio è stata più attenta, adesso inizia ad essere sempre un po' più forte rispetto alle critiche nei confronti dell'amministrazione nordamericana. Però gli iraniani sono in attesa, in realtà l'Iran sta recuperando a livello economico, nonostante i bassissimi prezzi del petrolio che incidono moltissimo sull'economia iraniana, però l'Iran sta tornando nel commercio a livello internazionale, solo molto più lentamente di quanto ha bisogno il paese, in realtà delle potenzialità che ha il paese. ایران در مدت زمانی کوتاه نه در مقیاس هفته و ماه بلکه در مقیاس ساعت و روز. E la voce che sentite è proprio quel discorso fatto al Parlamento di Teheran, in cui il presidente Rouhani diceva agli Stati Uniti: attenzione, perché il programma nucleare si può riattivare. E c'è un altro dossier che è importantissimo, che ovviamente non va ignorato, perché è il dossier che viene spesso invocato quando si parla di restaurare rapporti con l'Iran: i diritti umani, i diritti dell'opposizione, c'è la pena di morte, diritti individuali, diritti civili, un tema su cui l'Iran ancora deve fare un lungo percorso. L'amministrazione sta lavorando in questo senso? Punto di domanda. Sentite cosa dice Raffaele Mauriello. Assolutamente, te ne dico una su tutte, perché è una cosa che io ho un problema che ho sollevato personalmente. Come dici tu, io insegno a Teheran, quindi passo buona parte dell'anno lì, sono 20 anni che frequento il paese, conosco insomma varie persone in Iran, anche a livello insomma di ministeri, e il punto che anch'io pongo sempre agli iraniani, per esempio la pena di morte, di cui veramente c'è stato un uso eccessivo in Iran. Certo, c'è da dire che il 90% dei casi di pena di morte in Iran sono legati al traffico di droga, di cui l'Iran subisce delle estreme conseguenze, perché c'è una grandissima produzione in Afghanistan che arriva all'Europa attraverso l'Iran e attraverso la Turchia. L'Iran combatte molto questo, e vengono uccisi proprio in maniera giornaliera non pochi poliziotti, in realtà poi i Pasdaran sono quelli che difendono il confine con l'Afghanistan. Però proprio qualche giorno fa il Parlamento ha passato una nuova legge per cui oggi non si può più applicare la pena di morte per i reati di possesso di droga. Cioè stiamo dicendo, probabilmente ci sarà, ti dico una cifra, un possibile calo del 90% delle esecuzioni capitali in Iran dopo questa legge. Perché? Perché, ti ripeto, la maggior parte delle esecuzioni capitali in Iran erano basate sulla droga. Il Parlamento ha approvato una nuova legge, e dobbiamo dire che appunto ci sono delle elezioni parlamentari in Iran recentemente, e hanno vinto insomma coloro che appoggiano Rouhani. Ha passato questa legge per cui oggi non sarà più possibile applicare la pena di morte in Iran per reati di droga che non siano gravissimi. Sì. Quindi l'Iran è cosciente di questa cosa. In realtà, questo, ti dico la verità, dal mio punto di vista, insomma, di esperto di relazioni internazionali, il problema dei diritti umani è un problema effettivamente serio in alcuni paesi, ma non tantissimo in Iran. In realtà è più un'arma che cercano di utilizzare soprattutto gli Stati Uniti per imporre delle sanzioni a certi paesi. In certi casi è vero, però nel caso dell'Iran in realtà, per esempio, gli Stati Uniti non dicono niente, così si parla dei diritti delle donne. In Iran le donne godono di importanti diritti, c'è da fare molto, ma se, per esempio, non si fa lo stesso discorso sui paesi del Golfo o sui paesi arabi, per cui è chiaro che si parla di diritti umani quando fa comodo. L'Iran sta facendo molto, è cosciente che c'è un problema dei diritti umani, gli iraniani lo sanno, insomma. Sì. E ti dico, questa importante legge passata al Parlamento, di cui appunto non si è parlato, credo, la stampa internazionale, proprio come se non fosse successo niente, cioè appunto ti dico, c'è interesse nei diritti umani, poi l'Iran fa una legge di questa importanza e c'è il silenzio assoluto, no? Sì. Per cui è un'arma più politica che altro, anche se il problema è reale. Era Raffaele Mauriello, esperto di Islam sciita, insegna all'Università di Teheran, che concordava che insomma il dossier dei diritti umani certamente non può essere ignorato, è un problema reale, e c'è tra gli osservatori chi dice: attenzione, perché le aperture verso certi regimi consentono anche un dialogo che potrebbe portare anche alla risoluzione di alcuni problemi. Dall'Iran però andiamo negli Stati Uniti, e lo facciamo con Gabriele Barbati, che è in diretta da Washington, se non erro. Gabriele, giornalista, lavora a Voice of America, già corrispondenze da Medio Oriente e da Cina, ma adesso sta a Washington. Gabriele, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buon pomeriggio a voi. Allora, si raffredda il dossier nordcoreano, si riscalda quello iraniano. Abbiamo capito perché, dal punto di vista di Teheran, perché Donald Trump ha questo interesse a riscaldare ancora una volta il dossier con Teheran. Gabriele Barbati. L'Iran è stato, insieme alla Nordcorea, uno degli argomenti cavalcati maggiormente da Trump durante la campagna elettorale, anche da parte del Partito Repubblicano. Sono temi quelli del confronto internazionale che fanno sempre molta presa sull'elettorato, che fanno comodo anche nella prospettiva delle elezioni di medio termine. che ci saranno tra 2 anni. Naturalmente sappiamo come purtroppo politicamente paghi molto spesso in clima elettorale un clima di confronto piuttosto che i risultati che possono aver raggiunto delle politiche precedenti, come per esempio quella dell'amministrazione Obama con l'Iran. E naturalmente in questo momento in cui peraltro l'agenda repubblicana su gli argomenti di politica interna, dalla riforma del sistema sanitario all'immigrazione, non hanno raggiunto risultati, di fatto il Partito Repubblicano e Trump si stanno rivolgendo maggiormente alla politica estera, e naturalmente il tema numero uno caldo, come dicevi appunto, è quello dell'Iran e della possibilità di rivedere l'accordo nucleare del 2015. È tutto, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, per oggi Nessun Luogo Lontano finisce qui. Vi aspetto in diretta lunedì ore 16, in replica ogni mattina alle 6 e la sera alle 20 per una sana scorpacciata di esteri. Un saluto da Giampaolo Musumeci.